Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1867, per la sconfitta di Lissa, condannato l'ammiraglio Persano. Il clamoroso processo all'ammiraglio Persano è finito il 15 aprile di questo 1867 ed è finito con una condanna annunciata, prevista in fondo, voluta dallo stesso establishment per lavare in qualche modo la vergogna di Lissa. Carlo Peglion di Persano ha pagato per tutti. Il Senato di cui Persano fa parte, costituitosi in Alta Corte di Giustizia, lo ha giudicato responsabile per disobbedienza, imperizia e negligenza nella gestione del comando e gli ha comminato la pena della dimissione, della perdita del grado e delle spese, circa 60.000 lire. Persano si può consolare con il fatto che la condanna non gli toglie la pensione né lo scranno da senatore né le decorazioni, ma l'uomo è moralmente e fisicamente distrutto. Il processo è durato in tutto 15 giorni. Si era aperto il 1 aprile sotto la presidenza del senatore Marzucchi. L'accusa è stata sostenuta dagli onorevoli Trombetta, Negli e Marvasi. La difesa dagli avvocati Samminiatelli e Giacosa e dal capitano di vascello Clavesana. Respinti i ricorsi di nullità, le accuse si sono concentrate sul fatto che Persano si è allontanato dagli ordini ricevuti, ha causato il fallimento della spedizione e soprattutto ha dimostrato imperizia per essersi trasferito dal re d'Italia, poi colato a picco all'affondatore nel momento dell'azione. La testimonianza del contrammiraglio Vacca su questo punto in particolare è stata decisiva. Persano ha cercato di difendersi così. Lasciai la nave ammiraglia per salire sull'affondatore, perché lo credevo, come lo diceva la voce pubblica, un potente mezzo di guerra. Poi il pubblico ministero Marvasi ha fatto la sua requisitoria sostenendo la colpevolezza dell'ammiraglio che non aveva un piano preciso dell'isola di Lissa, soffermandosi sull'errore del trasferimento di ammiraglia durante la battaglia e accusando Persano, che è rimasto impassibile, di aver causato la morte di tanti marinai. Per la difesa l'avvocato Giacosa ha richiamato il Vangelo con amarezza. Occorre, ha detto, che un uomo solo muoia per tutto il popolo. Un'accusa velata che l'avvocato Samminiatelli ha esplicitato, ricordando che l'impresa di Lissa era stata decisa dal ministro della Marina De Pretis, dal contrammiraglio Vacca e dal comandante Nemico senza l'intervento di Persano. Non è servito a nulla. Su Persano pesava l'aver cercato di falsificare il risultato della battaglia una volta arrivato ad Ancona. Una pura menzogna che ha pagato cara, anche al posto forse di chi avrebbe dovuto essere insieme a lui alla sbarra. E invece è rimasto al governo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.